Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, lo sapete che la frutta tagliata fresca che vedete in molti supermercati d'Italia e soprattutto in molti supermercati del mondo viene tagliata e confezionata da macchine che in parte significativa sono italiane? Sì, c'è un'azienda italiana che si chiama ABL, che vuol dire Ascari, Bignardi e Lupi, ma che secondo il suo fondatore vuol dire adesso bisogna lavorare, che in quel di Concorezzo, in provincia di Modena, produce queste macchine, perché noi italiani siamo bravissimi a fare macchine. La produzione di macchine è il nostro punto di forza, noi siamo primi nella meccanica, abbiamo primati mondiali nella meccanica. Purtroppo tante volte ci pensiamo come un paese di cuochi, di turisti e di ristoratori, che meno male che non siamo questo e non saremo mai questo, perché altrimenti saremmo tutti poveri e peggio della Grecia. Invece siamo un grande paese di produttori di macchine ad elevato valore aggiunto. La storia dell'ABL è bellissima perché è la storia di un'azienda fondata da un singolo dirigente del concorrente americano, che all'epoca era monopolista, che ha portato quest'idea a Concorezzo, l'ha fatta crescere, ha creato un'azienda dinamica che è co-leader di mercato nel mondo e poi ha saputo anche resistere al terremoto, perché la ABL, quando c'è stato il terribile terremoto dell'Emilia Romagna, è andata completamente distrutta. Lui, il cui motto è adesso bisogna lavorare, si è rimboccato le maniche e ha rifatto tutto da capo. Ha anche trovato un fondo di private equity che lo sostiene, anzi una società di investimento che si chiama NEIP3, e che ci parlerà di come vede l'economia reale. Lui si chiama Carlo Ascari, l'abbiamo ospite qui. Buongiorno. Buongiorno. E poi ci collegheremo anche con Domenico Tonussi, che è il gestore del fondo NEIP3, che investe tutto in aziende dell'economia reale, che ha deciso di sostenerlo. Allora, signor Ascari, ho ricostruito bene la sua storia? Sì, è costruita bene, tranne che il nome del paese, che è Cavezzo. Ah, è perché ho confuso con Concorezzo, che è in Lombardia. Sì, questo è in Emilia. Diciamo che si può riconoscere il fatto dell'epicentro del terremoto del 29 maggio del 2012. E cioè, il terremoto veramente ha distrutto l'azienda, nel senso che lei quanto tempo si è fermato? Ah, niente, il 29 maggio, purtroppo quel giorno che ormai è diventato un momento di misurazione del tempo per noi nella bassa modenese, si è tolto la possibilità di lavorare, avevamo un capannone semi crollato. E quindi anche le attrezzature all'interno sono state danneggiate? No, siamo riusciti a salvare quasi più o meno tutto. Il 4 giugno abbiamo firmato un contratto a 25 km di distanza per un capannone diverso, che in quel momento era vuoto. Già il 4 al pomeriggio abbiamo cominciato a trasloccare, siamo rimasti 2 anni e 4 mesi in quel posto. Intanto abbiamo dato inizio alla ricostruzione e il 28 settembre del 2014 abbiamo fatto l'inaugurazione del nuovo. Ecco, invece il fondo Fininten Partners, che poi non è un fondo, una società di investimento, che però viene gestita con una logica da private equity, quando è che è entrato nel vostro capitale prendendone il 44%? Diciamo che i primi approcci sono iniziati che ci trovavamo ancora così delocalizzati, questo è il termine venuto fuori dopo il terremoto, e poi si è concluso esattamente il 2 aprile del 2015. Ma è legato l'ingresso del fondo alla questione del terremoto che vi ha danneggiato e quindi c'era bisogno di risorse nuove, oppure è semplicemente legato a poter avere risorse per piani di crescita? Diciamo che la seconda. Noi abbiamo aumentato il personale, diciamo che era necessario avere un aiuto esterno, perché siamo una famiglia, siamo io, mia figlia e mio figlio, che è sempre in giro per il mondo, anche in questo momento è per aria che sta andando a Chicago, e abbiamo ritenuto necessario di cercare sul mercato qualcuno che volesse collaborare con noi. E avete trovato loro. Adesso però la devo interrompere perché ci sono gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stavamo parlando con Carlo Ascari, che è un imprenditore che gestisce la sua azienda, la ABL, che fa macchine per la lavorazione della frutta, e nel frattempo ci ha anche raggiunto in collegamento telefonico Domenico Tonussi, che è il managing partner di Finintem Partners, che è una società di investimento che fa parte del gruppo Banca Finint di Enrico Marchi, che ha investito in questa e in altre aziende dell'economia reale. Buongiorno, dottor Tonussi. Buongiorno. Allora, Ascari, ma com'è che fate, voi che siete piccoli, 40 dipendenti in tutto, 15 milioni di euro di fatturato, a rompere le scatole a un colosso come Atlas Pacific? Ma diciamo che alla fine del secolo, diciamo 98-99, andando in giro per l'America, ho cominciato a vedere dei contenitori con dentro della frutta fresca, che ha una vita di 8-10 giorni, 7-8 giorni, e ho cominciato a informarmi dove veniva fatta, chi è che proponeva questo nuovo prodotto, e ho scoperto che in America c'era un grande mercato, più di 50.000 messicani che tagliavano la frutta a mano. Abbiamo cominciato a proporre delle macchine che non esistevano, prima per gli aranci, poi per il kiwi, poi per ananas, meloni, mango, papaya, mele, pere lo stavamo già facendo da prima, e pesche, però sono mercati che sono tipicamente europei, e allora è stato necessario guardarsi in giro per il mondo per offrire queste nuove tecnologie che di volta in volta devono essere inventate. E voi siete in una zona geografica, la Bassa Padana, dove c'è una forte competenza storica in tema di macchine. Adesso, a parte il discorso dei Ferrari, Maserati, Lamborghini, Bugatti, questi qua che sono, sì, vabbè, quello una sono cosa motori. Molto diversa, c'è effettivamente Carpi, Castelfranco, Nonantola, c'è una grande storia della meccanica che va in giro per tutto il mondo. Noi ci siamo... Voi fate parte di questa storia, e immagino anche che traiate alimento di questa storia, perché magari avete nella zona fornitori e collaboratori. Tutto quello che facciamo viene progettato all'interno, dentro da noi. Poi ci avvaliamo di terzisti fuori che ci fanno, ci aiutano per tutto il lamierame, particolari, ma le idee sono tutte dentro di noi, perché non c'è in Europa nessuno che faccia queste cose. Sì, abbiamo adesso ultimamente un napoletano che ci sta scoppiazzando, perché questo è il vero termine, però la tecnologia che offriamo sul mercato è tutta ideata da noi. Comunque, il dato interessante è che in Gran Bretagna un terzo della popolazione consuma frutta già preparata, negli Stati Uniti il 20% e in Italia solo lo 0,2%. Questo può essere anche la spiegazione per cui il 100% della vostra produzione è esportazione. Insomma, in Italia non si riesce a portare questa abitudine. Ma abbiamo fatto negli anni due fabbriche, ha venduto le macchine in due fabbriche, una Ferrara, una Bologna, che però vivacchiano, diciamo così, non crescono di un... Perché forse c'è l'interesse a vendere la frutta così, secondo non tagliata. Uno dei motivi è che la grande distribuzione non è pronta a questo, mentre negli altri paesi tutti lo stanno facendo, in Italia viene visto come una cosa molto, molto particolare, che crea impegno, perché la frutta deve essere seguita, deve essere tenuta in un posto a temperatura controllata, 2-3 gradi, per garantirne la vita, e non c'è nella grande distribuzione ancora italiana se non la mentalità delle verdure, quelle si trovano. Sì, ma non le frutte. Ecco, siccome il tempo è tiranno, bisogna andare un po' veloci. Volevo parlare con il dottor Tonussi di Finintem Partners, che ha investito in questa azienda, ma anche in tutta una serie di aziende dell'economia reale. Mi risulta che abbiate anche appena comprato un panificio industriale, no? Certamente. Ecco, ma come mai voi, come Finintem Partners e in generale come gruppo, proprio in questo momento storico avete deciso di puntare sull'economia reale? Innanzitutto ci sono dei macro trend sui quali vorremmo investire. Uno è quello del food. La frutta cresce ogni anno a livello mondiale del 3-4%. e in questa maniera pensiamo poter dare a alcuni investitori interessati a questo un rendimento che è correlato a dei trend reali, appunto consumo della frutta, consumo del pane, che sono decorrelati rispetto agli andamenti erratici che ci sono purtroppo sui mercati finanziari e che sono, speriamo, superiori rispetto ai rendimenti monetari bassissimi di investimenti senza rischio. Cioè, l'economia reale in questo momento è interessante perché è decorrelata dalla volatilità dei mercati finanziari, ma anche perché forse ci sono le materie prime, il petrolio, l'acciaio e compagnia bella che sono ai minimi. Sì, infatti l'altro tema che abbiamo visto anche prima nell'altro investimento è proprio relativamente al fatto che in questa fase storica molti materie prime hanno livelli bassi, né ci sono aspettative di incrementi nel breve periodo, quindi probabilmente riusciremo a avere un momento particolarmente favorevole in alcuni settori, questo è sicuramente vero. Ma in generale comunque tutta la banca, tutta la finanziaria svolge un'azione di supporto all'economia reale, perché voi ad esempio assistete le aziende dell'economia reale nell'emissione di bond, avete fatto anche un progetto per i micro bond, avete un fondo che investe nei mini bond e avete anche portato alcune aziende dell'economia reale a quotarsi. Sì, diciamo che come banca il supporto che riusciamo a dare alle aziende e la possibilità che diamo agli investitori di avvalersi di questo macro trend è su diversi tavoli, quelli da lei citati, sia sull'equity, sia sul debito, sia per quanto riguarda il supporto in termini di consulenza, quindi è a 360 gradi. Torniamo dal dottor Ascari. Lei che progetti ha per il futuro? Noi adesso stiamo vedendo che in un mercato dove la frutta viene richiesta, sempre di più c'è la necessità di prodotti nuovi, a volte anche solamente presentarli in un modo diverso. Uh-huh. L'ultima idea è quella in America, ma anche in Olanda, in Inghilterra ultimamente sta crescendo e abbiamo già delle richieste, tagliatelle ricavate dalla frutta. Ah, come le tagliatelle, le pseudo tagliatelle come quella del cuoco vegano di cui fa l'imitazione Crozza, che però rispecchiano un trend. Noi pensiamo che offrire qualcosa che il cliente chiede sia la chiave del successo. Ultimamente l'ultima nata è quella per le cocomere o angurie, non so come la macchina per tagliare i cocomeri o angurie. Ecco, in America c'è un mercato di un prodotto che viene chiamato Spears. Diciamo sono pezzi di cocomere lunghe da 8 a 12 centimetri, sono un rettangolo praticamente di 3x3 più o meno, e si fanno milioni di questi pezzi che vengono consumati freschi tutti i giorni. Basta andare in America per vedere al mattino in tutti i ristoranti, in tutti gli hotel, alla colazione c'è sempre un contenitore con del cocomero tagliato. Sì, sì. Riuscire a intercettare queste richieste pensiamo che sia un po' la chiave riguardo. Però gli americani mangiano tutta sta frutta e tutta sta verdura, ma sono grassissimi. Lei va in America e vede una quantità di obesi che colpisce a vista d'occhio. Basta lo so. Noi adesso facciamo parte, mio figlio è uno dei membri del comitato del consiglio di un'organizzazione americana, unico europeo, e presidente onorario è la Michelle Obama, perché stanno lavorando moltissimo per contro l'obesità, specialmente infantile, perché veramente è da lì che parte, queste persone poi non si recuperano più. Però paesi come stati come la California, la Florida, il Texas hanno superato il 40% di utilizzo della frutta già pronta. Senta Tonusi, ma mi elenca un po' di investimenti che ha fatto il suo fondo nell'economia reale di questo paese in aziende tipo ABL? Sì, guardi, allora noi abbiamo investito in termini di capitale investito circa il 40% nel food. Sì, sì, ma mi dica i nomi delle aziende. Ma guardi, brevemente. L'ultimo che mi ha preso, quello che citavo lei prima, è il Panificio San Francesco, che è un'azienda che produce pane. Pane rivolto alla GDO. Poi? Pane di qualità rivolto al residuo. Poi c'è ABL, poi abbiamo un investimento in forno d'asolo. Uh-huh. E poi abbiamo investito, a proposito delle economie reali, in aziende che si occupano di meccanica. Questo è interessante, perché poi alla fine anche ABL è un'azienda meccanica. Nelle aziende di meccanica, che cosa avete, su quali carte avete puntato? Noi abbiamo preso e abbiamo già ceduto un'azienda che produce motori elettrici. Che si chiama? Ad alta efficienza, che abbiamo già ceduto, si chiama Laffert, che è un'azienda veneta. E poi un'azienda emiliana che si chiama Nuova Giungas, che produce giunti per l'oil and gas. Ma poi alla fine NEIP vuol dire Nord-Est Investment Partner, ma perché voi siete nel Nord-Est, però investite ovunque. Sì, investiamo ovunque. Anche a Napoli, diciamo... non in quello che copia le macchine di ABL, ma anche a Napoli se c'è un'azienda meccanica la comprate. Sì, sì, no. Genericamente, sa, poi il private equity in Italia viene svolto prevalentemente nel Nord Italia e il nostro focus geografico è questo. Beh sì, anche perché quel tipo di aziende ci sono prevalentemente nel nord Italia, nel nord est. Noi abbiamo dedicato sabato scorso, no, non sabato ieri, ma il sabato della settimana prima, proprio una trasmissione all'indagine che ha fatto Unioncamere con Mediobanca sulle medie imprese, e si vede che sono nel nord e nel nord est soprattutto le medie imprese industriali redditive. Purtroppo il tempo è tiranno, quindi a me il signor Ascari è anche simpatico, prossima volta gli chiederemo di fare il DJ, ma ora lo devo salutare. Grazie. Arrivederci, e arrivederci anche al dottor Tonussi. Ringrazio.